Buonasera cari amiche e cari amici di Radio Ernica e di radioernica.com. Siamo in forte ritardo questa sera, ma ci dovete scusare, ma stiamo appunto entrando in funzione con questo nuovo sistema di trasmissione. Siamo adesso anche in diretta sul nostro sito www.radioernica.com. Ci vedete, siamo ripresi dalla nostra webcam, quindi ci scusiamo di nuovo. Innanzitutto lo slogan di rito: no alla legge bavaglio, quella che riprendiamo quasi ogni sera. Innanzitutto leggiamo le principali notizie della cronaca nazionale e della cronaca locale. Intanto una notizia del televideo, dell'ultima ora del televideo: sono le 19:18 minuti, denaro e sesso per riti, mago in cella. Un meccanico cinquantenne di Trapani che si faceva passare per mago vantando capacità taumaturgiche è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di estorsione e violenza sessuale. La polizia, dopo la denuncia di un uomo che per 15 anni si era rivolto al mago e una volta rotti i rapporti era stato oggetto di numerose intimidazioni, ha accertato la polizia con intercettazioni e video riprese le attività dell'uomo. Con il pretesto di togliere il malocchio aveva abusato sessualmente per mesi di una donna. Questa è la notizia del televideo. Intanto noi passiamo alla lettura dei principali quotidiani, delle principali notizie nazionali e locali. E innanzitutto, prima però leggere le prime pagine di Repubblica e di Ciociaria Oggi, salutiamo un graditissimo ospite, Guglielmo Cecilia, corrispondente di Ciociaria Oggi. Buonasera Guglielmo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori. No, mi associo anche all'appello che avete fatto all'inizio, no? Alla legge bavaglio. È importante, insomma, che si combatta ancora fino a che ce ne sia il modo e il tempo contro questa legge che effettivamente nega la libertà di informazione, il diritto di cronaca e di informare i cittadini italiani. Bene, con lui commenteremo le principali notizie della giornata e poi ci soffermeremo anche su un approfondimento che lo riguarda proprio da vicino, che riguarda il suo lavoro di corrispondente di Ciociaria Oggi nelle ultime settimane. Intanto passiamo alle notizie di cronaca nazionale. È la Repubblica che apre con le notizie sul lavoro e sulla vicenda, sull'avvertenza della Fiat di Pomigliano. Sì, perché appunto i metalmeccanici della CGL non ci stanno alla proposta dell'azienda della Fiat di Pomigliano d'Arco. Impossibile firmare quel testo. Il 25 giugno è previsto uno sciopero di 8 ore. La FIOM quindi boccia l'accordo. Il comitato centrale ha bocciato all'unanimità e quindi ha deciso di non sottoscrivere il piano presentato dalla Fiat per il salvataggio dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Il testo è stato già firmato da CISL e UIL, ma per i metalmeccanici della CGL, che hanno indetto 8 ore di sciopero per il 25 giugno, è impossibile sottoporre al voto accordi che violano i contratti e la Costituzione. Un appello di Guglielmo Epifani all'azienda: Marchionne, ci ripensi, la fabbrica non è una caserma. È l'evidente riferimento all'idea che appunto la FIOM ha della forte violazione dei diritti dei lavoratori, che appunto sarebbe il rischio contenuto nell'accordo, nell'ipotesi di accordo proposta appunto da Marchionne. Inoltre, poi ancora in un box viene appunto riportato da Repubblica la polemica per quanto riguarda il G8 per le manette a Fabio, le manette ai polsi a Fabio De Santis, l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, coinvolto nello scandalo sugli appalti del G8, visibilmente provato e dimagrito. Dopo 4 mesi di carcere è stato condotto nel tribunale del riesame di Firenze, ammanettato ad un altro detenuto. Un'inutile umiliazione, poi un articolo di spalla e un commento della scrittrice giornalista Miriam Mafai. E poi il caso intercettazioni, la legge bavaglio, Fini frena, e Berlusconi che risponde ora basta ricatti. Il presidente della Camera Gianfranco Fini frena sull'iter parlamentare della legge Bavaglio. Non c'è fretta, viene prima la manovra economica e nell'esame del disegno di legge garantirò il rispetto dei regolamenti. Dura la reazione di Silvio Berlusconi, basta ricatti, si chiude rispettando i tempi. Sulla vicenda invece del nastro Fassino consorte, i PM chiedono la testimonianza coatta di Niccolò Ghedini che per 3 volte non era andato in procura. Poi la revocano dopo una trattativa. L'onorevole e avvocato del Premier si presenterà spontaneamente. Sempre sul G8, il caso proposto da Michele Serra, appalti, favori e amici, questo lo scandalo Lunardi. E poi una fotografia campeggia nella prima pagina di Repubblica, è la fotografia di De Rossi che esulta dopo aver segnato e centrato il suo gol. E questa appunto la prima pagina del quotidiano Repubblica. Bene, allora Guglielmo, intanto vogliamo commentare queste principali notizie del quotidiano di Eugenio Scalfari? Sì, beh, sono le notizie che ormai campeggiano da qualche giorno sulla stampa e poi su anche le principali notizie che sentiamo sui media nazionali e non solo. Beh, senz'altro prende più spazio la Fiat con lo stabilimento di Pomigliano. Effettivamente è una vicenda abbastanza complessa e certo la FIOM ha qualche ragione nel non firmare. Si vieta il diritto di sciopero, si vieta la pausa pranzo, si obbligano straordinari, che effettivamente tutte cose che forse in Costituzione sono riconosciute, ma poi sia da altre leggi sul lavoro sia dai contratti collettivi. Pertanto si dovrà riflettere a lungo, perché potrebbe anche creare un precedente e quindi qualsiasi azienda potrebbe fare la stessa cosa, ecco. Un ultimo accenno magari sull'Italia, sulla nazionale di Lippi. Effettivamente ieri abbiamo esordito con un pareggio, ci può stare. Effettivamente abbiamo mancato di varie occasioni a concretizzare sotto porta, insomma, ecco, però siamo solo agli inizi. Sì, speriamo insomma che la nazionale possa comunque possa ottenere i risultati che merita, perché insomma ieri abbiamo visto una nazionale all'altezza della situazione. Tra l'altro insomma il terreno difficile, il freddo, la pioggia che insomma è stata incessante, certamente non ci ha favorito nel secondo tempo, nemmeno l'effetto psicologico dell'assenza del portiere mondial Gigi Buffon, che appunto ha avuto questo problema alla schiena, ma insomma i commentatori sono tutti ottimisti circa una sua rapida ripresa. Bene Guglielmo, arriviamo adesso velocemente, perché sono le 19:26 minuti, alla cronaca locale, e iniziamo subito con la prima pagina di Ciociaria Oggi, che dedica l'apertura al mondo della sanità. Per quanto riguarda la ASL di Frosinone, cambiamento e novità ai vertici ASL, tutto pronto per il cambiamento. E appunto Mirabella in regione ha accettato l'incarico, tutto pronto per il cambio ai vertici dell'ASL di Frosinone. Ieri mattina il commissario straordinario in pectore Carlo Mirabella si è recato in regione, dove ha detto sì all'incarico a giorni l'insediamento in via Fabi. Ecco, quindi si parla di cambiamento, insomma questo invece io parlerei più di un ritorno, forse il titolo del Tempo di Frosinone è più adatto, parla appunto del ritorno di Mirabella, ritorno di un direttore generale che appunto ha gestito la ASL di Frosinone lasciandosi dietro una coda di polemiche. Insomma, ricordiamoci che la gestione Mirabella è stata la gestione della giunta Storace, che ha lasciato in eredità alla sanità locale un pesante debito sanitario. Ma comunque andiamo avanti, parliamo sempre di politica, parliamo della nostra provincia di Frosinone. La giunta provinciale va verso il rimpasto. Il gruppo che fa riferimento al presidente presidente del Consiglio regionale Mario Abruzzese reclama più spazio. Un gruppo di 6 amministratori, che appunto fa riferimento al presidente abruzzese e all'eurodeputato Alfredo Pallone, ha ufficialmente chiesto al presidente Iannarilli un riequilibrio dell'esecutivo provinciale. Ma ancora rimaniamo a Frosinone, e la notizia principale di Ciociaria oggi: a Frosinone nasce il Marini Bis, perché stiamo assistendo appunto all'ingresso in giunta dell'UDC, l'assessore nominato è Colasanti, e inoltre il sindaco nomina assessori anche Ciotoli e Raffa, il primo naturalmente ex maggioranza, ex lista, la nuova lista di cui non ricordo nemmeno il nome, che appunto si era costituita, il nuovo gruppo consiliare che si era, Realtà Civica mi pare, sì, che si era costituito in alternativa, un po' in un atteggiamento di discussione rispetto alla maggioranza di Marini. Evidentemente Ciotoli ci ha ripensato. Dopo Colasanti, Ciotoli e Raffa sono gli altri due nuovi assessori della giunta Marini, anche se le carte devono ancora essere firmate, così appunto ci dice Ciociaria oggi. La lista Marini ha rinunciato all'assessore Parlanti, che andrà a ricoprire la carica di capo di gabinetto del sindaco. Nel PD invece è in atto una guerra, perché nessun assessore vuole fare un passo indietro. E poi ancora a Sora, furto alla statua di Sant'Antonio, trafugata la campanella. Audace furto nella chiesa di Santa Restituta a Sora. Ignoti hanno portato via la campanella, che era appoggiata sul bastone di Sant'Antonio Abate. Accorato l'appello di Don Bruno Antonellis, che chiede ai responsabili di restituirla alla comunità dei fedeli. A Monte San Giovanni Campano, oggi pomeriggio, per quanto riguarda Monte San Giovanni Campano, oggi pomeriggio però a Casamari si sono svolti i funerali di Pio Cretaro e Giuseppe Ferrante, i due amici morti sabato notte sulla via Maria. Migliorano intanto le condizioni di Andrea Coratti, il terzo giovane coinvolto nello schianto. A Frosinone ancora, in queste giornate tragicamente dense di incidenti stradali, troppo spesso dall'esito mortale, un grande lavoro per contrastare questo triste fenomeno è stato fatto dagli agenti della Polizia Stradale di Frosinone, grazie all'aiuto della Motorizzazione di Roma. E all'interno della pagina appunto Ciociaria oggi dedica un approfondimento su questa vicenda. Naturalmente una delle notizie principali riportata dal quotidiano Ciociaria oggi riguarda direttamente Anagni e la festa degli ambientalisti per il no al Carflaff, per le porte chiuse in faccia alla Marangoni Tire dalla Regione Lazio in occasione della conferenza dei servizi di ieri, sulla quale abbiamo dedicato l'approfondimento di ieri sera, e soprattutto la lunga maratona di 6 ore circa di diretta, con collegamenti direttamente da Roma, coordinata da Aurelio Tagliaboschi in studio, nel corso della quale abbiamo seguito le tappe salienti di questa vicenda. Non ci dilunghiamo ulteriormente su questi fatti, perché appunto abbiamo dedicato tutta l'edizione di ieri sera alla vicenda Marangoni. È però interessante qualche spunto di riflessione che Ivan Quiselli sul Tempo di Frosinone questa mattina ci suggerisce, soprattutto la posizione dell'azienda Marangoni Tire, che per il momento si riserva di appunto commentare e approfondire il provvedimento della conferenza di servizi, ma subito comunque parla di una decisione politica. Quindi dicevamo prima, il Marangoni Tire si è presa un paio di giorni per esprimersi a proposito dell'esito finale della conferenza dei servizi. Presto sapremo essere in grado di dare notizie più precise, ha affermato Gerardo Macale, direttore dello stabilimento. Un dato comunque è chiaro, è stata una decisione politica. Evidentemente la Marangoni non è bene accetta in questa provincia. E poi ancora una dichiarazione che suona un po' come un ammonimento. La proprietà della Marangoni deciderà del proprio impegno in questo stabilimento. Questa è un'affermazione. Queste due sono affermazioni molto interessanti, perché seguono alle paventate, come le vogliamo chiamare, minacce su quelli che possono essere, può essere il mantenimento dei livelli occupazionali attuali in seguito alla bocciatura dell'attività di incenerimento di Carflaffa. Nelle settimane, nei mesi scorsi, da parte dell'azienda e anche da parte delle organizzazioni sindacali ci si era soffermati lungamente su questa, su questo rischio che veniva paventato di licenziamenti, di riduzioni e di esuberi. E questa dichiarazione dell'amministratore delegato Gerardo Macale certo è abbastanza inquietante. Chissà che non sia anche un messaggio più o meno diretto lanciato anche a quelle istituzioni che appunto si sono dimostrate comunque all'esterno contrarie all'inceneritore. Forse nei prossimi giorni potremo assistere all'evoluzione di questa vicenda, che comunque è chiusa dal punto di vista istituzionale, anche se la società si riserva la possibilità del ricorso. Chissà che significato hanno queste affermazioni, chissà se forse assisteremo ad un ridimensionamento dell'entusiasmo iniziale da parte di alcuni rappresentanti anche autorevoli della nostra provincia e della nostra città rispetto a questa dichiarazione. Chissà se questo, chissà che questo non sia proprio un messaggio che ha questo preciso obiettivo, ma saranno i fatti dei prossimi giorni e delle prossime settimane a dircelo. Bene, intanto Guglielmo, tu come commenti queste principali notizie della provincia e questa vicenda del Carflaff e della bocciatura da parte della conferenza dei servizi di ieri? Ma io mi concentro soprattutto su quanto riguarda la vicenda della ASL e del Carflaff. Beh, la ASL, più che di cambiamento, si può parlare di un cambiamento di natura politica, ma non di un rinnovamento dal punto di vista della persona, visto che Mirabella è ormai un veterano dell'azienda sanitaria e devo dire anche un veterano della giunta Storace. Insomma, ci ha creato anche qualche problemino, visto che ci siamo ritrovati con 10 miliardi di euro di debito sanitario. Per quanto riguarda la vicenda Carflaff, devo dire personalmente sono molto soddisfatto, è stata finalmente dimostrata per una volta dopo anni una serietà istituzionale che non si vedeva da tempo. Diciamo che sono state ascoltate le richieste di 4.000 e più firmatari, si è dato segno di unità tra politica e cittadini. Direi che insomma si è dato un bel esempio. Per quanto riguarda le dichiarazioni del dottor Macale, forse è la prova questa dichiarazione della volontà forse di trasformare lo stabilimento solamente in un inceneritore, perché non si spiega questa dichiarazione. Dovrebbe licenziare forse se ha intenzionato 17 persone, cioè quelle che erano dello staff dell'inceneritore. Il resto dovrebbe continuare così come ha sempre fatto. È ovvio che se ridimensionerà l'organico oltre le 17 persone, è ovvio che avevano altre intenzioni che non quelle di continuare a produrre pneumatici, ma quelle solamente di incenerire Carflaff. Allora questi lavoratori dovranno essere difesi, ma se perdiamo lo stabilimento Marangoni, se le intenzioni erano quelle, forse ci abbiamo forse anche guadagnato. Ecco. Bene, ci fermiamo per un attimo per una pausa musicale e una pausa pubblicitaria. Prima vediamo appunto insieme una ultima ora del televideo. Sono le 19:36 minuti, il Kirghizistan, la vicenda del Kirghizistan, una dichiarazione della Croce Rossa che parla di molte vittime, un'ulteriore conferma dei massacri che si stanno attuando nel paese asiatico, viene dal Comitato Internazionale della Croce Rossa che parla di diverse centinaia di vittime nel sud del paese. È difficile avere dati precisi, ma pensiamo che in questa sanguinosa crisi si possa parlare di centinaia di morti, ha detto il portavoce della Croce Rossa Internazionale Cardon, che ha aggiunto: molti corpi non sono ancora stati identificati e altri decessi non sono venuti alla luce. La Premier Otunbayeva ha chiesto alla Russia l'invio di una forza di pace. Questa è l'ultima ora del televideo, noi ci fermiamo per qualche minuto. Bene, eccoci di nuovo in linea, eccoci di nuovo in onda. Intanto potete intervenire scrivendoci al nostro indirizzo di posta elettronica ernica@libero.it oppure chiamandoci al nostro numero di telefono 0775 726546, Radio Ernica 105.9 in modulazione di frequenza, www.radioernica.com. Intanto vi ringraziamo, cari amici e cari amiche che siete in ascolto e che ci seguite dalla rete, perché ieri è stata una giornata importante per noi nel corso della diretta della mattinata condotta da Aurelio Tagliaboschi, e nel corso anche dell'approfondimento che abbiamo fatto nel pomeriggio io e Marco Tagliaboschi sul tema del CarFlaf. Abbiamo avuto molti ascolti e molte visite sul nostro sito. Noi vi ringraziamo e siamo convinti, insomma, che questo argomento possa aver attirato l'attenzione di tutti i cittadini di Anagni, ma anche di tutti i paesi dove noi veniamo appunto ascoltati. Bene, ritorniamo con Guglielmo Cecilia, corrispondente di Ciociaria Oggi. Nella prima parte, nel corso della nostra diretta, abbiamo approfondito con lui e commentato e analizzato insieme le principali notizie della cronaca nazionale e locale. Veniamo quindi ai suoi lavori su Ciociaria Oggi, in particolare ad una vicenda che Guglielmo ha seguito con molta attenzione, ha seguito nel corso anche dei mesi e che ha seguito anche nei giorni scorsi con i suoi reportage. La vicenda è una vicenda che riguarda e che interessa moltissimi nostri concittadini di Anagni e che è appunto la vicenda inerente ai festeggiamenti delle feste patronali di San Magno e le rievocazioni medioevali, le rievocazioni storiche che ormai da quasi 20 anni, 15-16 anni, allietano i nostri concittadini, che sono ormai affezionati alle contrade, anzi sono anche appassionati tifosi della propria contrada, soprattutto nelle celebrazioni del Palio all'Anello che si tengono alla fine del ciclo dei festeggiamenti, ma sono anche appassionati ai cortei storici delle contrade. Appunto Guglielmo di questo problema si è occupato lungamente. Si è occupato di questo problema delle contrade di Anagni per quale motivo, soprattutto in questi giorni? Quali problemi ci sono nelle contrade di Anagni, nell'associazione che appunto guida e riferimento di queste contrade anagnine? Quali problemi ci sono nelle contrade e tra le contrade e le istituzioni locali? Ce lo dice Guglielmo Cecilia. Sì, innanzitutto dobbiamo mettere a conoscenza chi ci ascolta che ogni anno, prima dei festeggiamenti patronali, l'AIAM incontra solitamente l'amministrazione comunale per predisporre quelle che poi saranno le iniziative che verranno realizzate nel corso dell'estate, nel corso appunto dell'estate dei festeggiamenti patronali. Ebbene, nel corso di questi vari incontri vengono messi a punto anche quelle che sono le erogazioni dei compensi che giustamente per il lavoro svolto nell'estate l'amministrazione comunale erogherà al comitato centrale dell'AIAM, che successivamente dividerà tra i vari rioni che partecipano ai festeggiamenti. Bene, purtroppo, dopo i festeggiamenti dell'estate 2009, il comune di Anagni non ha erogato alle contrade, quindi al comitato centrale dell'AIAM, i compensi promessi e stabiliti per tre annate, quella del 2005, quella del 2007 e quella del 2009. Dal momento che l'entrata che l'ente locale dà all'AIAM costituisce l'unica entrata economica per i rioni, che quindi con quel denaro svolgono le manifestazioni e quindi le iniziative che fanno ogni estate, le contrade si sono ritrovati senza entrate di tre anni e quindi molti capocontrada hanno messo denaro di tasca propria, senza poi avere la possibilità di essere rimborsati per un'iniziativa che sì riguarda la loro persona, la loro contrada, ma riguarda poi tutta la cittadinanza e quindi è giusto anche che venga riconosciuto il lavoro. Ecco, dal momento che quindi queste tre annate non sono state erogate dal comune, alcuni mesi addietro le contrade si sono viste per programmare i festeggiamenti 2010 e hanno inteso deliberare che avrebbero effettuato solamente le manifestazioni religiose, cioè il corteo storico del 17 agosto con la messa in onore del patrono presso la Basilica Cattedrale e la processione del 18 con la propria delegazione, mentre per quanto riguarda le tradizionali, i tradizionali cortei storici della prima settimana di agosto che ogni anno le contrade mettevano in atto ciascuna in ogni giorno e successivamente la manifestazione del Pali all'Anello che rientrano nel programma civile, hanno deciso appunto di non effettuarle per questo anno 2010 se il comune non avesse erogato i compensi passati e non avesse inoltre promesso quelli che sarebbero riguardati, che avrebbero riguardato le manifestazioni 2010. Per questo, insomma, una notizia che ha fatto scalpore, perché senz'altro perdere una manifestazione di questa importanza che da ormai 16 anni caratterizza l'estate anagnina e che trova apprezzamento in una larga parte della cittadinanza, soprattutto anche in virtù non della cultura e della storia che viene effettivamente riprodotta, quanto piuttosto anche dal punto di vista economico e della vitalità del centro storico che in quei 10 giorni torna effettivamente a vivere dopo un lungo torpore che lo caratterizza per l'intero anno. E quindi una notizia che ha fatto scalpore, che poi ha determinato diversi incontri che si sono susseguiti tra IAM e ente locale per effettuare delle trattative per cercare di salvare un po' il salvabile. Bene, tu l'ultima nota, l'ultimo approfondimento tuo risale a quando su questo problema? Risale alla settimana scorsa, cioè fine settimana scorsa, diciamo. Perché appunto c'era stato un primo incontro tra Comune ed IAM due settimane fa, nel quale appunto l'assessore alla cultura, nonché vice sindaco Daniele Natalia, aveva formalmente effettuato appunto una proposta di accordo all'IAM, nella figura del vicepresidente vicario Umberto Tommasi, il quale poi ha convocato una riunione d'urgenza l'8 giugno con i rappresentanti delle contrade, appunto per ufficializzare quella che era la proposta dell'ente locale, proposta che è stata ritenuta inaccettabile dalle contrade che hanno invece formulato una controproposta all'assessore Natalia. E quindi in questo incontro di pochi giorni fa il vicepresidente Tommasi ha praticamente fatto presente all'assessore Natalia la delibera della riunione IAM, quindi l'inaccettabilità della proposta da lui effettuata, e ha poi palesato quella che era la controproposta delle contrade. E ecco. Di quale controproposta si tratta? Ne conosci tu i termini, i contorni di questa proposta? Allora, quella del comune, quello che io sappia, è una proposta che riguardava solamente il 2009, cioè una somma esigua, perché penso si aggirasse intorno ai 3.000 euro per saldare i tre anni passati e 7.000 euro per il 2010. Questo è quello di cui... Per tutte le contrade, naturalmente. Sì, da dividere poi... Che sono sette, sì. E poi, mentre la controproposta dell'IAM era quella appunto dei 10.000 euro per gli anni passati e 7.000 euro per l'anno in corso, quindi 17.000 euro totali. Il vice sindaco, a quanto io sappia, ha migliorato la sua proposta, che verrà però miglioramenti che verranno resi ufficiali questa sera, perché è in programma una riunione delle contrade appunto per ulteriormente analizzare la situazione, sperando appunto di trovare una soluzione positiva. Non sei in grado tu di darci qualche anticipazione, qualche indiscrezione circa questa proposta? Sul miglioramento della proposta dell'assessore Natalia purtroppo no, perché ho avuto alcune, diciamo, sollecitazioni rispetto ai miei articoli che ho scritto, che sono stati, forse hanno sortito parecchi effetti, visto che molti cittadini hanno telefonato sia alle contrade che all'assessore pregando di trovare una soluzione, quindi purtroppo i termini del miglioramento della proposta non mi sono stati detti, proprio forse per non creare ulteriori, non lo so, polemiche all'interno della cittadinanza. Quello che so è che, parlando con qualche rappresentante di contrada, si vede comunque la determinazione che mai era stata dimostrata fino adesso dall'AIAM in determinate occasioni. Sono determinati nel richiedere i propri diritti e quanto gli spetta, giustamente, proprio in virtù del fatto che le contrade esigono rispetto e pari trattamento rispetto ad altre realtà, sia territoriali sia esterne, che effettivamente i compensi li hanno ricevuti e che continuano tuttora a ricevere. Però staremo a vedere, insomma, la volontà delle contrade di fare una manifestazione, di fare la manifestazione 2010 c'è, perché è una manifestazione a cui tengono particolarmente. Volontà che forse non è così spassionata da parte dell'ente locale, che si dimostra comunque rigido nelle proposte. Beh, certo, questa atmosfera da bocche cucite, no? Circa delle eventuali anticipazioni e indiscrezioni alla stampa ci lascia un po' pensare. Chissà quali possono essere i contorni di questa proposta. Non si capisce nemmeno perché, appunto, si debba diciamo convenire, le parti debbano convenire circa, appunto, l'idea di un silenzio stampa su questa cosa. Non mi sembra che si stia, appunto, programmando l'arresto di Bin Laden o di qualche pericoloso latitante mafioso. Comunque, va bene, queste sono ragioni che noi rispettiamo, sono comportamenti che noi rispettiamo. Non è detto che qualsiasi cosa debba essere, appunto, palesata alla stampa, ai giornalisti e ai corrispondenti locali. Ma piuttosto, Guglielmo, io vorrei, appunto, vorrei fare un approfondimento ulteriore con te su questo problema, perché, insomma, noi stiamo parlando di un'iniziativa che coinvolge circa 400 persone tra i figuranti, ma molte di più, cioè si arriverà probabilmente a un migliaio di nostri concittadini tra figuranti, sarte, perché ricordiamo che i costumi sono confezionati direttamente dalle contrade, truccatrici, organizzatori, addetti al servizio d'ordine, insomma, cioè, c'è un coinvolgimento di un'intera comunità. Non solo comunità parrocchiale, ma anche della nostra comunità civile, della nostra comunità cittadina. E quindi è una manifestazione grande, una manifestazione che, anche dal punto di vista dello spettacolo, se vogliamo parlare così, insomma, anima la città per diversi giorni. Ma stiamo parlando però di 17.000 euro, se solo a voler essere ottimisti, cioè se vogliamo fermarci a quella che è la proposta dell'Associazione Interparrocchiale Anagni Medievale. E stiamo parlando, appunto, di poche decine di migliaia di euro, a fronte invece di un sempre maggiore, diciamo, sborso, sforzo economico e anche di risorse organizzative da parte del Comune di Anagni in occasione dell'organizzazione delle festività patronali. Sforzo maggiore che spesso si riduce anche ad appuntamenti che praticamente impegnano la città soltanto per una sola giornata, o forse anche per una sola serata, con degli spettacoli di musica o di arte varia, diciamo, una volta così si chiamavano. E come mai, secondo te, questa difficoltà da parte dell'ente locale a soddisfare le esigenze di concittadini che, tutto sommato, sono volontari e che volontariamente anche, appunto, contribuiscono ad animare la vita cittadina durante le festività patronali per 10 giorni almeno? Beh, effettivamente, se questa domanda venisse rivolta al sindaco di Assisi, al sindaco di Siena, al sindaco di Ascoli Piceno, probabilmente si farebbe una grossa risata, visto che loro vivono l'estate con queste manifestazioni, con il Palio di Siena, con la giostra della Quintana, a Gubbio con la sfilata dei ceri, il Palio dei Ceri, al Monte Pulciano con la gara col bravio delle botti. Effettivamente è qualcosa che lascia pensare sull'effettiva volontà del comune, dell'amministrazione comunale, di investire su quelle che sono le realtà del territorio, perché, dicevi bene, effettivamente viene coinvolta una buona buona porzione di cittadinanza che appunto anima l'estate anagnina con più di 10 giorni di appuntamenti. Ma la cosa importante è che questa manifestazione fa riscoprire delle vicende storiche, delle vicende culturali della nostra città, che l'hanno appunto resa protagonista nella storia universale, nel panorama mondiale dell'Europa, che effettivamente dovrebbero invece inorgoglire l'animo dell'amministrazione, dovrebbero effettivamente caratterizzare quella che è poi una politica turistica e culturale di un'amministrazione, perché effettivamente non so quanti cittadini effettivamente sappiano che cosa sia successo effettivamente nel Medioevo, e con queste sfilate, con questi cortei storici nel loro folklore, nel loro aspetto folcloristico, in realtà hanno dietro insito quello che è poi, diciamo, un scopo culturale e sociale che veramente è meritevole, va apprezzato. Purtroppo non si capisce il motivo, perché è una somma esigua effettivamente, cioè sono 17.000 euro per un'amministrazione, per una città di 20.000 abitanti non è nulla, però eppure Gino Paoli è venuto, Antonello Venditti l'abbiamo chiamato, non penso che non siano stati pagati questi grandi personaggi del panorama della musica, che in realtà sì, sono importanti, per carità, però non penso che le contrade siano meno di un Gino Paoli che anima una serata. Ricordo, voglio finire con un episodio, ricordo che un anno le contrade si trovarono in una difficoltà economica enorme per mancanza di finanziamenti e quindi rischiavano di non poter uscire, di non poter svolgere le loro manifestazioni. E allora era vescovo della città, Monsignor Bellori, che nella sua grande personalità, tanto ha fatto per la nostra città, prese l'iniziativa e di persona, di tasca sua, tirò fuori questi soldi che mancavano e permise lo svolgimento di quella manifestazione, che quell'anno fu effettivamente una delle più belle. Ecco, io magari, non lo so, il sindaco o l'assessore Natalia potrebbero fare lo stesso, magari, se veramente tengono a questa manifestazione. Probabilmente non ci tengono quanto ci teneva Bellori o quanto ci tengono le contrade, oppure forse il potere, la sedia, l'amministrazione, magari effettivamente è molto più importante di quello che sia una realtà del territorio come l'IAM. Beh, noi raccogliamo questo appello che giriamo all'assessore alla cultura e vice sindaco di Anagni, e al sindaco di Anagni, che tra l'altro li ricordiamo è stato anche vicepresidente dell'associazione IAM, dell'associazione interparrocchiale Anagni Medievale, che appunto coordina e guida tutte le contrade anagnine. Ricordiamo insomma che questa somma è anche esigua, anche perché nella maggior parte dei casi i costi che vengono affrontati dalle contrade anagnine sono molto ben superiori. Spesso le contrade si autofinanziano, debbono ricorrere anche a finanziamenti, a sovvenzionamenti, a sponsorizzazioni private, ma certo, insomma, questo contributo da parte del comune sarebbe, dell'ente comunale, sarebbe di grande sollievo. Concludiamo su questo argomento, però prima di concludere, forse per dare la dimensione anche ai concittadini che magari durante il mese di agosto sono in ferie, ma anche a tutti coloro che ci ascoltano dagli altri paesi e non conoscono questa manifestazione, Guglielmo, raccontacela un po' brevemente, che cosa fanno le contrade in questi 10-15 giorni di festeggiamento? Sì, allora, diciamo che le contrade anagnine ogni anno aprono quelli che sono i festeggiamenti patronali, e li aprono con una settimana di appuntamenti pomeridiani che ogni giorno coinvolgono un rione diverso della nostra città, il quale appunto in costume medievale, l'epoca bonifaciana, quindi fino al 1290-1300, praticamente in costume medievale sfilano per il centro storico della città e giunti in piazza centrale, questo devo dire, mi dispiace, lo fanno in pochi, cioè non è obbligatorio per ogni contrada, in piazza svolgono quello che è uno spettacolo di animazione, e questa animazione appunto ogni anno ha un tema diverso, E vede protagonisti, per esempio alcune, una contrada in particolare è protagonista proprio con il suo rione, che con i propri figuranti, quindi tutta la contrada insieme, svolge quello che è lo spettacolo di animazione, con l'ausilio o meno di gruppi esterni che la contrada si riserva di contattare per il tema che intende appunto porre in essere nello spettacolo di animazione. E questo riguarda quella che è la prima settimana di festeggiamenti. L'IAM poi torna protagonista il 17 agosto di ogni anno, perché appunto alle 18 di ogni anno da Porta Cerere tutte quante le contrade annine svolgono un grande corteo storico che giunge poi presso la Basilica Cattedrale, dove le contrade celebrano una messa in onore appunto dei santi patroni Magno e Pietro da Salerno, messa che viene animata dalle contrade stesse che svolgono le letture, i canti e le preghiere. Il 18 agosto poi, quando nel corso della processione del Santo Patrono, le contrade partecipano con una delegazione che consta appunto di dello stendardo e due figuranti per ogni rione, a quella che è la processione patronale, aprendola, e quindi sfilano anche con questa delegazione anche il 18. L'ultimo appuntamento è poi quello previsto per la domenica dopo il 18 agosto, quella successiva, subito dopo il giorno di San Magno, nella quale appunto si svolge quello che è il palio, la tenzone all'anello, il palio all'anello. Sempre viene riproposto quello che è il corteo storico, a partire appunto sempre da Porta Cerere, per giungere nella parte alta della città, quindi a Piazza Innocenzo III, al di sotto della cattedrale, dove in un'atmosfera medievale e storica si svolge la tenzone all'anello in notturna, dove i cavalieri appunto si sfidano in sette manche a punti, ogni anello appunto ha un punto, e alla fine si stila una classifica e il cavaliere che ha ottenuto più punti risulta poi vincitore del palio e dell'annata estiva. Ecco, ecco appunto, infatti uno dei protagonisti di questa rievocazione, di questa saga medievale, è appunto il cavallo. Anzi, ricordiamo che in passato, i primi anni dal momento, diciamo, il momento in cui è nata questa iniziativa, durante la sera della processione di San Magno sfilavano proprio tutte le contrade al completo innanzi ai busti dei due santi patroni dell'immagine del Santissimo Salvatore, e sfilavano appunto tutti i figuranti rappresentati anche dal proprio cavallo e dal proprio cavaliere. Quindi il cavallo andava in processione. Poi nel corso degli anni si sono apportate delle modifiche, appunto adesso siamo arrivati ad una rappresentanza delle contrade, perché c'erano anche problemi un po' organizzativi anche di cura della del corteo, dello stesso corteo processionale, ma insomma questa figura del cavallo, tanto cara anche agli anagnini, è protagonista di questa saga. Ma non solo, i protagonisti principali sono appunto i giovani, gli uomini e le donne che lavorano con passione a questa iniziativa. Bene, noi ci auguriamo che questa vicenda si concluda positivamente, che si possa raggiungere un accordo tra l'amministrazione comunale e l'associazione Anagni Medievale, perché come anagnini siamo appassionati a questa manifestazione, la vogliamo, la amiamo e non vorremmo privarci di queste iniziative così belle per quest'anno. Intanto ricordiamo, è in corso in questo momento la riunione del Comitato Centrale delle Contrade presso il seminario minore di Anagni, locali del seminario minore di Anagni vicino a Tigui alla nostra basilica cattedrale. In questo momento probabilmente il vicepresidente Umberto Tommasi starà illustrando la proposta migliorativa, migliorata diciamo dall'assessore Natalia, per decidere, deliberare se accettare o no l'offerta del comune di Anagni. Noi non mancheremo nei prossimi giorni di darvi tutti gli approfondimenti anche su questa vicenda. Intanto ringraziamo Guglielmo Cecilia per averci tenuto compagnia nel corso di questa edizione dedicata all'informazione, lo ringraziamo, ci scusiamo anche con lui perché questa sera siamo andati in diretta un po' tardi per problemi tecnici. Anche noi abbiamo voluto migliorare migliorare la nostra proposta, la nostra offerta di informazione, ma per fare questo abbiamo bisogno dei nostri tecnici che oggi hanno lavorato veramente con hanno lavorato con passione e indefessamente per garantire una migliore informazione, un migliore audio e una migliore visione a tutti voi. Bene, noi ci vediamo domani sera, vi salutiamo a tutti e vi ricordiamo a tutti quanti il nostro slogan No alla legge bavaglio. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Nessuno, sì, ti passerà, è malato.